Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Adesso sganciare. Sì. Sto sbarmottando. Allora, partiamo. Introduci o no? Eh sì, un attimo, fammi parlare. Hai detto di no. Se lui fa l'orso. Ma perché no, scusa, dobbiamo fare l'episodio 17. Dato che siamo arrivati all'episodio 17, facciamo una piccola introduzione. Salve a tutti. E benvenuti, come abbiamo detto, all'episodio 17 di Film Busters, l'episodio che porterà sfiga a tutti noi e che ci impedirà di continuare in questa nostra avventura, anche perché Rasen ormai ha deciso di avere il suo blog e quindi noi non abbiamo più senso di esistere, dico bene? Sì, e poi tu stai per morire, quindi... Io ormai la schiena sta per diventare un blocco di marmo e quindi rimarrò paralizzato e userò la scusa per non scrivere più, già non scrivo adesso. E... avete sentito il monco, che quindi ne approfitto per farlo salutare. Ciao. Ciao a tutti, sono sensitivo. Sei un sensitivo. E poi abbiamo l'amante dei film brutti, intrinseco. Ciao, sono un imitatore di Robert De Niro da giovane. Quindi anche oggi ci delizierai con l'ennesimo film brutto dalle tinte horror, vero? Non è uno bello. Magia nera, no? Magia negra, magia bianca, Harry Potter, a quattro occhia volante. No, aspetta, Harry Potter. Sì. Ma piuttosto, visto che l'altra volta abbiamo anche parlato di questo Juve-Inter, ma c'è un interista che non sta parlando oggi dell'Inter. Io non sono tifoso, io tifo solo quando perdo la Juve. Faccio riferimento all'altro. Ma cosa c'entra? Ah, prima di tutto io tifo Albino Leff, secondo simpatizzo per l'Inter, e poi sta zitta, ne avete presi tre... È stata a più 4, stiamo a più 4 davanti. Quindi. Ma che vuol dire? A forza di furti? Sì, certo. A forza di pippe, mi sono diventato cieco. Vi siete comprati pure la partita dell'Atalanta, vi siete comprati. Che ladri. Poi quelle degli altri, proprio non mai paghi di questa disonestà, se le comprano tutte. Questa quanta la fate? Però le paghiamo e ci paghiamo pure le tasse, vedi? Sì. Siamo onesti. Sì. Allora, episodio solo film, perché purtroppo Disney non ha acquistato nessuno. Noi speravamo che ci acquistasse Film Busters, ma hanno detto che per il momento non se ne parla, anche perché abbiamo avanzato pretese nell'ordine degli 8 miliardi di dollari. E quindi parliamo solo di pellicole uscite quest'ultima settimana. Facciamo riferimento a Argo, Red Lights, Ballata triste de trompeta, ignobilmente tradotto La ballata dell'odio e dell'amore, e La collina dei papaveri è singolare. Le colline senza occhi, sì. Le colline hanno papaveri e occhi. Scusa, ma non dovevamo fare alternati? Uno suo, due miei, uno suo, vabbè. Ma io ho detto i film di cui parliamo. Poi pensavo fosse la scaletta, ok. No, allora... l'ho ignorata totalmente, no. Dicevo, La collina di papaveri di Goro Miyazaki, che è uscito in un solo giorno e il monco è riuscito a vederlo in quel solo giorno, vero? Sì, sì, proprio quel giorno. Proprio quel giorno? L'ho scritta 10 giorni dopo, ma è un caso. Sì, puro caso, insomma. Va bene. Ricordiamo che è uscito One Shot il 6 novembre, mi sembra. Sì. Sì, quindi... ecco, a tal proposito me ne frego e dico, se andate su Cineblog lo trovate, perché è inutile... fare i tanto ligi alla legge e al dovere, perché come fa uno che magari abita in un paesino e vuole andarsi a vedere sto film a riuscire proprio a vederlo, perché l'hanno fatto in 100 sale, che sono pochissime, l'hanno fatto una sola sera, immagino anche un solo spettacolo, per rendere ancora le cose più fastidiose, E uno se lo vuole vedere, boh, guardate, c'è lo streaming su Cineblog, vi do anche il link se volete, che mi frega, venitemi a cercare. E intanto una scuola SWAT sta venendo verso di te. No, però hai fatto un discorso giusto, dai, mettiamola lì. E anche vabbè, perché, vabbè, ne parliamo subito? E non lo so, parliamo prima di Argo? No, vabbè, già vabbè, che dato ce n'hai uno tu, uno lui, quindi decidi tu di che parlare prima. Dai, anche perché dico, questo Collina dei Papaveri, ecco, Collina dei Papaveri, in Giappone ha sbancato, è stato uno dei maggiori successi dell'anno, e è uscito da un anno, non è che stiamo parlando dei soliti, come hai detto prima, fuori onda, che Kiki lo rifaranno ad aprile, o insomma ste cose che organizzano la Ghibli, che ogni, no, vabbè, non so chi la distribuisca, la Ghibli è solo... La Lucky Red. La Lucky Red, ecco, che ogni tanto ne ricaccia fuori uno a distanza di 20-22 anni. Anche la Puta uscì, no, Mononoke. Porco Rosso? Sì, ma dico, adesso uscirà anche Mononoke, no? Sì, si era parlato di Mononoke, quindi... Vabbè, comunque, non stiamo parlando di quello, che è tipo la serata speciale, ve lo facciamo a metà settimana. Domani esce il DVD e il Blu-ray, quindi a posto. Se volete vedere al cinema, bene, se no, amen. Questo è un film nuovo, cioè, non ha senso. Lo spari fuori in un giorno e basta. Vabbè. Ma che poi mi sembra che Ponyo ricevette un trattamento totalmente diverso. Mi sembra che resta in sala per più di un giorno. Ma mi sembra anche Arrietty, l'ultimo. Poi sì, quello però tipo veramente in tre sale, quindi nessuno se ne è accorto. Vabbè, vabbè, anche questo, tipicità zero, ha visto Colline. Colline. Ma Ponyo non era arrivato anche da noi, io mi ricordo male. Ponyo sì, è arrivato, appunto sto dicendo, è arrivato da noi e è rimasto in sala. Andiamo a lui, se persino dalle nostre parti. Ah. Mi sembra di sì. Sì, mi sembra di sì, ma in ritardo. Comunque. Sì, comunque le multisala c'era, questo invece appunto non... a parte la data, ma c'entra niente, ma anche quello di Della Iglesia, sempre la Key Red, 9 sale, secondo My Movies. che senso ha? Vabbè. È bello che poi alla fine cosa puoi dire? Beh, almeno... escono, meno male che riusciamo a vederli. Sì. Vabbè, però è una scusa che ormai non regge più, non è possibile. No, escono appunto, come fai a vedere un film che è in 9 sale in tutta Italia? No, sì. Ma non escono perché, come ha detto la De Tassis, siamo troppo maniaci del protagonismo, e quindi siccome perdiamo troppo tempo su Facebook e non guardiamo i film, quindi... grande Piera con le tue filippiche, grande. E siamo chiusi anche. Sì, siamo anche chiusi. Uppato! e vabbè, quindi per chiudere questa polemica, anche perché quello della Iglesia magari meno, ma questi hanno un bel seguito, quelli della Ghibli e di Miyazaki and Company, cioè la in gente Italia... In Italia parecchio. Infatti, voglio dire, non è che esce e se lo inculano in quattro, vanno a vederlo in tantissimi questo. Non lo capisco, saranno logiche che ci sfuggono. Vabbè. Solo la pagina dello studio Ghibli Italia conta 7500 persone, insomma. Infatti. Non so se Argo ha fatto 7500 spettatori. Bah. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ecco, Collina dei Papaveri racconta la trama breve. Siamo negli anni 60, c'è questa... Anzi, mi sembra che dal manga omonimo ci sia proprio la data precisa, il 1963... un anno prima delle Olimpiadi Invernali, sempre qui nella zona lì di Yokohama, e protagonista è questa Umi, detta Mer Matsuzaki, che vive su sta collina, è piena di papaveri, e quindi si fa l'hashish, no, magari, se è stato così, non si vedono mai i papaveri per tutto il film. E comunque, una ragazzina di 16 anni, che gestisce praticamente da sola una specie di bed and breakfast, che è nient'altro che la sua abitazione, e la gestisce da sola perché il padre è morto in uno scontro in mare durante la guerra di Corea, e invece la madre è una professoressa universitaria che non è mai a casa. In questo bed and breakfast ci stanno insieme a lei quattro ragazze che insomma vivono lì. Sta Umi, Mer, eccetera, è una ragazzina praticamente perfetta, prima di tutto perché parla come il vocabolario, come un vocabolario, è incredibile, però questo è un errore, chiamiamolo errore, dovuto al doppiaggio italiano troppo zelante, che è stato ha praticamente tradotto alla lettera tutto il dal giapponese, che è molto più, non so, è strano, insomma, usano termini molto altisonanti. Per esempio qui, adesso la frase non me la ricordo bene, ti voglio affrancare da un lavoretto, detto da una bambina di 16 anni è stranissimo. Bambina, insomma, una ragazzina di 16 anni. Vabbè, e insomma, Staumi conosce un giorno a scuola Shun Kazama, un ragazzino di un anno in più, un anno più di lei. Nasce l'amore, solo che indagando sui loro passati viene fuori qualcosa che ostacola questo amore. Non vado avanti, siamo solo a metà film, però insomma, magari qualcuno vuole la sorpresa. E allora, a 5 anni dall'uscita di Racconti di Terramare, l'esordio cinematografico di Goro Miyazaki, figlio di Hayao, Goro ci riprova. Allora, non so chi di voi aveva visto Terramare. Io. Tu? E anch'io. Oddio, non era così brutto, no? Forse però, essendo il primo film del figlio di, ci si aspettava chissà cosa. Ma io lo trovavo parecchio privo di mordente. Noiosetto, non lo so. Sì, mi ricordava molto Il Castello Errante di Hall. Secondo me anche per quello non è piaciuto. Ah, ma non lo so, c'era tutta quella parte finale nel castello, l'ho trovata proprio a volte riuscivo anche a perdermi e non capire esattamente quello che stessero facendo. Sembra che manchino dei pezzi, perché molte cose sono date un po' per scontate, soprattutto è vero nel finale. E poi l'ho trovato pure parecchio scarno dal punto di vista visivo rispetto soprattutto ai film migliori del padre, insomma. Ma anche rispetto a questo, secondo me è molto meno dettagliato nelle superfici. Per esempio ci sono i draghi, ma sono abbastanza lucidi come disegni, non è raffinato e curato come quello successivo anche. Però da un certo punto di vista concordate che le critiche sono piovute più che altro perché era il figlio di e ci si aspettava troppo. Sì, sì, assolutamente. È stato un po' troppo massacrato. Alla fine, ok, non è a livello degli altri, però... Ma vale un po' il discorso che spesso abbiamo fatto per i Pixar minori. Sì, Pixar minore, però poi pisce in testa alla maggior parte dei film d'animazione che si vedono al giorno d'oggi, insomma. Sì. Ecco, a proposito di film minore, La Collina dei Papaveri... Dopo tutto lo definirei un film minore della Ghibli, perché è vero che è bellino, ha un'ottima atmosfera, e sono riusciti a ricostruire proprio l'atmosfera di quegli anni, gli anni 60, in maniera fantastica, grazie soprattutto alle musiche. C'è chi si è lamentato che non c'è Isaishi in questo capitolo, però penso che hanno fatto la scelta migliore. Isaishi ci avrebbe messo del suo e, non lo so, queste musiche proprio... Da piano bar anni 60 sono perfette. Poi le varie scenette, i giri in bici, le passeggiate sotto la pioggia con l'ombrello, sembra di rivivere un film di quell'epoca. Quindi a questo punto è bellissimo, però non va molto oltre, nel senso è un film romantico, perché non è molto altro, non ha quella poesia del babbo di Hayao. Non ha un messaggio finale, non so, ma Hayao Miyazaki ci deve infilare ogni volta sta benedetta ecologia. Questa volta, anzi, ne sono anche contento, non c'è. Nonostante ci siano i papaveri nel titolo, non si parla mai di ecologia, di inquinamento e robe varie. Però appunto sì, rimane un film minore, non è una cosa negativa. Semplicemente si lascia guardare benissimo, molto bello. Come al solito i movimenti, l'animazione, la fluidità del disegno della Ghibli è stratosferico. Ed è bello che loro continuino a lavorare con, tra virgolette, carta e penna, invece che passare alla computer grafica. E, però appunto, sì, rimane un film gradevolissimo, però non è a livello degli altri. Sono molto contento che abbia abbassato la mira, perché... Terramare mi sembrava molto pretenzioso da un certo punto di vista, mentre questa è una storiella che si vede, piace praticamente a tutti, magari a quelli che sono un po' allergici al rom-com non piacerà molto, non piacerà ai bambini perché non è il target, si annoieranno perché non c'è neanche una scena divertente, a parte il personaggio del filosofo, E vabbè, in definitiva, gradevolissimo, si lascia guardare come dell'acqua fresca, passa giù, non so quanto riuscirò ancora ad averlo bello fresco in mente, perché probabilmente lo dimenticherò presto, però durante la visione mi è piaciuto, soprattutto visivamente, ma anche come contenuti. Sì, vabbè, dico so giusto una cosa e poi mi sto zitto perché non l'ho visto, effettivamente anche dal trailer sembra abbastanza... dimesso rispetto agli altri dello studio Ghibli, insomma, mi sembra anche abbastanza terra-terra, nel senso che è una storia epurata dagli elementi magici degli altri film, anche del padre, però non lo so se effettivamente è così. Ma magici nel senso che non erano neanche ambientati in un mondo reale, intendi, anche da quel punto di vista? Sì, da quel punto di vista, ma non lo so, non mi sembra di aver visto, che ne so, spiriti, cose del genere. No, anche perché questo appunto ha una locazione temporale certa, è una cosa, è un evento reale, parla soprattutto, il tema principale è il ricordo e la preservazione del ricordo del Giappone, della storia giapponese che è rappresentata tramite il quartier Laten che... è la sede del club studentesco, vabbè. Questo è l'unico tema principale. Ok. Vabbè, vai Nicolete. Aspetta, non volevo interrompere, ma mi sono detto un attimo il cambio connessione, che sento malissimo. Vabbè. Mi puoi rinvitare? Sì, sì, ti ributto dentro. Aspetta. Sì, sì, te lo butto. Intanto noi facciamo chiacchiere. No. Sì, sì, intanto noi facciamo salotto. Questo è tutto perché, siccome l'editing è una cosa che mi riesce abbastanza fluida, edito ogni sera, no? Quanto è caro. Ma sei disconnesso? Non lo so. Eccolo. C'è un problema. Perché? Eh beh, perché sei disconnesso. Ah, oddio. E dicevamo? Dicevamo, allora. Allora... Bello, dai, chiudo sulla Ghibli, ma dai, sì. Sì, sì, sì, sì, dai. Non so quanti anni abbia Yao, ne ha parecchi, l'ho sempre visto con quella faccia da vecchiaccio. No? Da nonno, il nonno. Da simpatico nonnetto, sì. Guarda, è del 41, quindi 71. C'ha 71 anni. Vabbè, prima o poi si ritirerà, immagino, anche se di questo qua mi sembra che abbia curato, insomma abbia supervisionato il progetto, sì, credo di sì. Comunque, si può ritirare in un certo senso sereno, perché sia il figlio, magari quando gli daranno dei soggetti più decenti... Ha curato la sceneggiatura a Yao, eh? Ecco. Proprio prima che... Vabbè, non è brutto, però magari gli daranno qualcosa di più, con più ciccia... E soprattutto Hiromasa Yonebayashi, che è quello che ha fatto Arrietty, insomma sono due begli eredi, quindi anche quando si ritirerà penso che la Ghibli terrà comunque un buon livello, grazie a questi due e magari altri che hanno lì nascosti. Ma invece Takahata si è completamente affrancato da Ghibli, fa ancora qualcosa o... Takahata è quello dei... Di lanterna, no, sì, che lucciolo del lanterno, oddio. Sì. Una tomba per le lucciole, oggi con i titoli non vale. Sarebbe stato bello, lucciole per lanterne. Non fio sulla prostituzione durante quell'era. Che poi mi sa che già lucciole per lanterne non è della Ghibli, perché Pon Poco sicuro è della Ghibli, mentre invece lucciole per lanterne è... E ancora questo cazzo di lucciole per lanterne, Cristo. Ma va bene così. Una tomba per le lucciole, mi sa che già non era più Ghibli. Però vabbè, però lui era... sa che lui era coetaneo però di Miyazaki. Ha sei anni in più e non fa nulla dal 2003. Quindi no. Mi sa che sei ritirato. Mi sa di sì. Vai intrinseco! Sì. Che ha cambiato connessione, adesso ci sente benissimo, vero? Esattamente, in effetti. Non so perché, è strano. Ce l'ha più lungo questa. Sì. Sì, a me è piaciuto molto. Non so se definirlo minore, cioè semplicemente è molto diverso dagli altri. E mi piace anche per questo. Non di più, mi piace. perché va in una direzione diversa dal padre e dallo studio in generale. Intanto mi sembra che comunque in generale questo sia, nonostante i protagonisti, sia molto più adulto, almeno poi l'impressione che fa fino a un certo punto. Poi c'è il problema che diceva anche lui nella recensione, quello che sembra esserci di un po' più serio, un po' più di drammatico, si perde un po', senza spoilerare. Però in generale, come target, come argomenti, si rivolge a un pubblico più ampio, insomma, spinge un po' più in là la stina. Questa cosa del il Cartier Latin è, cioè, una specie di mini 68, no? Il Giappone dei ragazzini, ma vivono una forma di contestazione giovanile. Poi anche la questione del problema tra i due personaggi, finché non si risolve, comunque c'è il sospetto che sia qualcosa di un po' più adulto. Anche la figura del padre di lei, insomma, poi la guerra, e se si parla indirettamente, ma se ne parla della guerra in Corea, della gente morta in mare, ma anche di Hiroshima e Nagasaki, insomma, mi è piaciuto molto. In un certo senso è un film politico, che cosa che i film del padre non sono, anche se poi si dice magari dentro la questione ecologica, che comunque è marginale, nel senso non è, insomma, non è, insomma, i film di contestazione, insomma, è presente l'elemento, c'è il messaggio. E vabbè, anche l'antimilitarismo comunque. Sì, forse, ecco, in Mononoke magari, ecco, c'era anche un riferimento più diretto. Qui, ecco, una storia di ragazzi per ragazzi, più che per bambini, mi è piaciuto molto. Poi, sì, disegno come al solito bellissimo, non ha neanche senso parlarne, insomma, sarebbe un ripetere le solite cose che si dicono su questi film. Però, ecco, l'ho apprezzato molto come piega diversa, ecco, una storia più sommessa, più semplice, appunto, niente natura che prevarica, niente panismo, niente spiriti, è tutto lì, eppure funziona benissimo. Insomma, si regge in piedi, era difficile, no? Perché comunque i film del padre sono visivamente belli, anche perché va ad attingere a una tradizione. Questo la tradizione la chiama in gioco, ma in modo diverso, è un po' più rischioso, eppure ne viene fuori molto bene. Insomma, ecco, la direzione che ha preso mi piace, sarebbe bello vedere dei filoni diversi all'interno dello stesso gruppo, per cui ben venga. Sì, ecco, rispetto al film precedente forse ho apprezzato anche questo, che è andato in un'altra direzione rispetto ai racconti di Terramare, che sembrava un po' fare il verso alle storie che raccontava il padre, no? Questo fantasy legato molto sempre alla cultura, insomma, alle cose tradizionali poi rielaborate per i canoni del fantasy, però appunto non era riuscito così bene. Vederlo ritentare con una cosa diversa mi è piaciuto molto, è uno dei miei preferiti, ecco, magari sì, anch'io fra un po' cambierò idea, però ecco, anche per in generale lo studio Ghibli magari sono un po' anomalo, a me piace molto di più degli altri Porco Rosso, che magari è un pochino meno impegnato, se vogliamo, a me ha colpito molto di più in generale come storia, ecco. Anche a me. Però non bestemmiamo. In che senso? Comunque, promosso a pieni voti per ora. No, a me Terramare mi era sembrato quasi poco giapponese. Ma c'era la bamba. Che cazzo... Vabbè, dai, passiamo allora. Aspetta, chiudo solo. Magari è sembrato che non mi sia piaciuto granché. No, anche a me è piaciuto tantissimo. Magari dalla recensione si evince di più. Volevo solo dire che sapete quanto mi piacciono le romanticherie a me. non lo nascondo. Volevo solo dire che era minore in confronto agli altri, solo per quello. Però sì, anch'io mi sono bagnato come una ragazzina. Wow. E passiamo invece al film brutto di Intrinseco, dai. Eh sì, ai noi. Che c'entra? Buried, te l'hai rivisto tu? Buried l'avevi visto tu? Buried, sì. E allora? A me mi spingeva allo stesso interesse. Bari. Lo stesso regista, Bari. Bari vecchia. Sì, succedono queste cose a Bari, ti ritrovi sepolto vivo. Mio padre è di Bari, proprio, quindi non lo so. Vabbè, quindi si è capito, parliamo di Red Lights, l'ultimo film di Rodrigo Cortés, che è il suo terzo lungometraggio, comunque il secondo in una coproduzione hollywoodiana, più hollywoodiana che spagnola, credo, perché insomma un cast così adesso era un po' troppo. No, va bene, Buried era una... cioè Ryan Reynolds, che forse era la cosa più costosa, e il resto era tutto girato in una stessa location, quindi... era facile produrlo, questo un po' meno, c'è Sigourney Weaver, c'è Cillian Murphy e niente meno che Bob De Niro, e madonna. È un film che a me intrigava perché, non so, i film sulla magia non sono mai abbastanza, è un materiale buono che... Perché ti attraggono i film brutti, direi. Sì, no, mi interessava lo spunto di questa coppia di studiosi che va a mettere in discussione i ciarlatani americani, insomma, curatori, guaritori, veggenti vari. Quindi, insomma, ho già anticipato un po' la trama. Sono questa scienziata Margaret Matheson, che è interpretata da Sigourney Weaver, e accompagnata dall'assistente Tom, che è Cillian Murphy, e appunto fanno questo mestiere, oltre a essere degli esperti, concedono insomma i loro servigi a chi crede di essere stato fregato da un ciarlatano. Solo che c'è questa macchia sul curriculum di lei, che è Simon Silver, che è un veggente che potrebbe essere l'incubo di ogni scettico professionista, quindi un vero mago. È interpretato da De Niro, è un non vedente che piega i cucchiai, guarisce i malati, svolazza sul palcoscenico, però nessuno è mai riuscito a capire dov'è il trucco, insomma. Addirittura un giornalista scettico è morto durante uno di questi show, e spingendo Silver a ritirarsi. Un giorno Silver torna a calcare il palcoscenico per l'ultima volta, e Tom, Cillian Murphy, decide di vendicare l'umiliazione della collega e di, insomma, sfatare questo mito, questa leggenda vivente, e cominciano a succedere le cose, insomma, lei lo mette in guardia, lui non ascolta e ne paga un po' le spese, perché forse questo Silver ha davvero dei poteri più grandi di quello che sembra, e boh, tutto qui, perché la trama è interessante, ma il film è molto meno. Come Buried, uno va a vederlo e dice: cacchio, che idea, chissà come l'hanno sviluppata. Solo che Cortés è proprio un mestierante di quelli mosci, sa muoversi bene, sa maneggiare la macchina da presa senza creatività, guizzi particolari di creatività, però sa fare il suo mestiere e si ferma lì, insomma, gira queste cose, non dico impeccabili, ma comunque compatte dal punto di vista tecnico, però manca il coinvolgimento, manca l'interesse, manca la passione. Ecco, Buried era un film che dicevi: caspita, tutto girato in una bara, chissà come se la sbriga. Sì, se la sbriga dignitosamente, però non è che c'è una suspense, non c'è un coinvolgimento emotivo e psicologico. Cioè, è solo un film che si regge in piedi perché lui muove la macchina da presa come un pazzo e tu rimani sveglio, però boom, 30.000 telefonate, un taglio dietro l'altro, più frenetico, quando invece magari dovrebbe essere angosciante. E questo film è diverso perché appunto è una trama più convenzionale, però i problemi sono gli stessi, è girato bene, in modo anonimo in un certo senso, perché poi va a cadere nei cliché del thriller contemporaneo, fotografie fredde, grigie, buio insondabile spesso, che ci sta. Per esempio la scena dell'incontro con Silver dietro i tendaggi rossi, è una scena che funziona, molto bella, però il problema è che è tutto così il film, quindi anche la volontà di dare un tocco personale alla singola scena non perde di significato, che se è tutto imbevuto nello stesso tocco non convince. E poi c'è questa storia che non è all'altezza delle aspettative, un tentativo continuo di mettere in dubbio certe cose che non ci si riesce, anche perché è tutto troppo collaudato, è roba già vista in altri generi, in altre forme. Quindi ci prova come può a mettere insieme qualcosa che ti sorprenda, ma non ci riesce, e quindi deve andare un po' a parare con metodi magari meno nobili. Ho parlato di finali e di colpi di scena alla Shyamalan, ma in generale quel tipo di colpo di scena che ha bisogno di farti rivedere metà film, perché devi vedere tutte le scene che ti spiegano: hai visto? Qui c'era l'indizio. In realtà non è così, perché sono finti indizi. Tu sei spinto in una direzione e poi in realtà ti viene detto qualcos'altro, che poi questo non vuol dire che non sia prevedibile, perché non so, io nei primi 10 minuti avevo in realtà già intuito come andava a concludersi la cosa, perché non so, puzza di già visto da lontano un miglio, te lo senti che va a finire così, magari a metà qualche dubbio te lo fa venire, ma proprio perché sei stanco di star dietro queste false piste. E poi, boh, delude un po', ecco. Quando deve colpirti non colpisce, quando deve emozionarti non emoziona. Insomma, quando parli di magia non è difficile creare l'alone di mistero. Mi viene in mente The Prestige, che comunque poi era molto più grande, andava oltre il tema della magia, però come funzionava bene. Io Nolan l'ho un po' riconsiderato nel tempo, ma quello ancora lo apprezzo molto. Questo invece non ci si avvicina, cioè non ha la potenza delle immagini, i personaggi non sono consistenti, cioè De Niro dovrebbe essere una minaccia, un'ombra, una presenza magnetica, invece no, a parte che non spiccica una parola. Come ho letto altrove, sembrerebbe quasi che ha fatto tutte le riprese in un giorno, perché non c'è per meno di 20 minuti, è davvero... cioè, è lì, poteva esserci chiunque altro. Tra l'altro poi c'è una bellissima trovata per far vedere il passato di questo Simon Silver, bisogna farlo vedere da giovane, e lo impersona un imitatore, cioè un attore che somiglia a De Niro, e fa proprio il verso, come lo fanno gli imitatori, sai, bocca un po' imbronciata, si inclina con la testa a destra e a sinistra, è identico, è fantastico. Sì, anche i montaggi con le foto, tipo Forrest Gump che incontra Nixon, roba del genere. E boh, ma è una mosceria, poi c'è una scazzottata improbabile verso la fine, c'è un incontro che boh, magari dopo parlandone con il Monco vediamo se lui ha capito, Cillian Murphy che va per capire questo Simon Silver, va in un posto e non vi dico nient'altro e lo incontra e c'è una situazione, quello dice ma magari non ho capito io cosa voleva dire, poi aspetti che arrivi il finale, cioè spiegheranno, invece no, rimane lì in ballo, davvero, ecco appunto, sembra, lui ha detto confuso, In chat più che altro, poi magari spiegherà meglio. A me è sembrato scritto male, ecco, perché sembra sempre che voglia darti l'imbeccata nel senso sbagliato, perché ti imbroglia, però lo fa così, senza criterio, una scena dietro l'altra, ecco qua, succede questo, succede quello, insomma ti confonde, vuole spiazzarti, ma in un modo poco onesto. Boh, davvero peccato, perché comunque, ripeto, a me piacerebbe un bel film su questo tema, che non vada però sul soprannaturale o sul dubbio sul soprannaturale, cioè proprio andare a indagare sul mondo del ciarlatano e sputtanarlo, insomma è un tema attuale ancora, quindi oh, peccato perché il regista le competenze ce le ha, forse uno sceneggiatore migliore, un po' meno di libertà, uno scheletro più robusto a cui possa appoggiarsi, oppure boh, lasci perdere perché i filmetti scolastici ce ne sono un sacco, Non ne servono altri. Vado. Sì. Sì, vai. Possiamo dire alla fine che è un film di magia senza la magia. No? Wow. Sì, è più sul dubbio. Sì, senza, per non spoilerare, ecco, ti porta a voler dubitare su una cosa o sull'altra. No, non da quel punto di vista, nel senso che gli manca la magia. La scintilla. Sì, la magia del cinema non c'è, esatto. È talmente mollo e moscio che, mamma mia, quando gli dicevo confuso, alla fine la pensiamo uguale, io intendevo che rendeva confuso lo spettatore, perché mentre lo guardavo, come hai detto anche te, mi dicevo, ma mi sono perso qualcosa, non capivo alcune cose, poi magari le diceva 5 minuti dopo, usava questo stratagemma, lasciarti lì nel dubbio, visto che il film dovrebbe essere basarsi tutto sul dubbio. E poi ti dava la risposta, a parte in quella scena con la tenda, bellissima, bellissima, sì. Non lo so, è per questa striscia di sale che non vai avanti. Sembrava, sai cosa, i sogni di Cooper in Twin Peaks, non sì, capisco, sì, anche là, il pavimento, le tende. Sì, vuole strizzare l'occhio a Twin Peaks, ma in realtà è solo un tic nervoso. Sì, alla fin fine, a parte che mi sono annoiato fin dall'inizio, cioè se non ti prende dall'inizio, non ti prende più, e io non, mi sono anche sentito confuso, magari è un problema mio, nel senso non gli ho dato una chance dall'inizio, quindi alcune cose non gli stavo dietro, non mi andava proprio, però dovrebbe essere il film a prendermi fin dall'inizio, dal primo minuto, con quelle scene, il primo caso in cui vanno a vedere se c'è davvero degli spiriti o no, insomma, e niente, non, questa sciampista che si improvvisa, insomma, esperta di paranormale, quelle robe lì, bah, non lo so, mi ha lasciato talmente apatico, ogni tanto fa anzi fa ridere appunto quella scena dei cessi o qualcosa di ma perché? Lì avevano finito. E poi anche se fosse stato un bel film, la sola presenza di Robert De Niro ormai è una cosa che ti manda a puttane tutto, perché appena entra in scena sembra che diventa una commedia, e lui è Robert De Niro o un attore che imita Robert De Niro, è una maschera ormai, fa le sue facce, fa le sue robe, e a parte l'imitatore iniziale che lì lì è davvero una commedia, dai, lo sta imitando in tutto e per tutto, ma che però è più bravo di lui, è questo che è strano. Sì, sì. È un miglior De Niro di quello autentico. Altro, è un regista spagnolo quello, l'imitatore. Magari così si fa un po' di pubblicità. No. Non lo so, spero di dimenticarlo presto, perché è davvero brutto. Ma non dal lato formale, appunto. Tra fotografia, regia e tutto il resto è decente. Bisognerebbe forse vederlo senza audio. Magari, sì, sì, magari acquista. Sì, un clip show più che un film. Sì. Ma come Buried, no, lì non c'era materiale, era solo far funzionare uno schema. Qui sì, è proprio boh. Se non te la sbrighi neanche con una cosa del genere, insomma, dai, un po' di passione. Gli studenti di cinema ce ne sono tanti, serve gente che ha un po' di amore per quello che fa. Secondo me Cortés non ce l'ha, o almeno non ha ancora modo di dimostrarlo. Ma poi o semplicemente incapace. No, in Buried, con Buried l'avevano chiamato il nuovo Hitchcock, perché aveva tentato una cosa hitchcockiana. Qui di Hitchcock sono i titoli di testa, molto carini, per il resto zero, ma zero proprio. È vero, i titoli di testa me li ero dimenticati, il resto li ha oscurati con l'anonimato, però è vero. Ma io ero partito con un po' più di buona intenzione, ci voglio provare. E nei primi minuti ci ho provato, quasi mi stava prendendo, però è una cosa che tu hai citato all'inizio, me l'ho dimenticato di parlare, una cosa del genere, un film del genere deve partire bene subito, invece lì il primo caso sembra proprio un anticipo di quello che vedrai dopo, una cosa deludente, no? Lei che incontra, cerca di spiegare il mistero, dice chissà cosa c'è dietro, invece boom, taglio, lei sul porticato e dice alla bambina sei tu che battevi il mobile contro il muro? Sì, va bene, e poi il resto non lo spieghiamo, e poi anche il resto è così, perché un ragazzo sul forum faceva notare che certe cose non vengono spiegate, non posso dire cosa e perché, ma riguardano il personaggio di De Niro e quello che fa. Effettivamente, cioè, se la sbrigano con una scena, lo liquidano così, e poi tu dici, ma c'è qualcosa che non va, e effettivamente è così, e neanche come scrittura, non è neanche troppo accurato. Ok, vabbè, allora archiviamolo e passiamo al terzo film di Ben Affleck, no. Argo, e ce ne parla il Monco, che ha scritto anche una recensione molto frettolosa. Sì. Chissà perché. No, è stata una recensione obbligatoria, no. Un dovere. Un dovere, ecco. Mandami la busta paga. No, cos'è che volevo dire? Non mi ricordo neanche più. Argo. Sì, Argo. Volevi dire proprio Argo e frecce? No. Scherzo. Stai male alla schiena, lo so. Io c'ho la schiena, anzi non c'ho la schiena, quello è il problema. No, non ho più spina dorsale. Ecco, vedi. Entriamo nella seconda parte del programma dove c'è anche Alex Diro. Salve. Buongiorno. Vabbè, io ho cercato di ritagliarmi i miei spazi inutili. Sì, e penso fatto di esserci anche riuscito. Hai fatto bene. Ti dobbiamo dare un mixer in cui fai partire delle basi, delle cose del genere, dei suoni. Ma ce l'ho i suoni su Pamela, solo che quando li uso poi la registrazione va a puttane, quindi... Ecco. Meglio di no. Va bene. E non ho un gatto. Ecco. E c'entra. Vabbè, puoi andare. Eh? Vabbè, puoi partire. Dai, Fargo. Fargo e frecce. Argo vaffanculo, che non è un insulto, cioè non è che gli sto dicendo che è un brutto film e lo odio, ma questo è solo il motto del film, in pratica. Potevano chiamarlo così, era molto più bello. Allora, come ho scritto nella recensione, la gente non ride più, incredibile. Ben Affleck, nel giro di comunque pochi anni, è riuscito a cambiare totalmente la sua immagine, e da quell'attore bisteccone apprezzato dalle donne, non so perché, ma comunque apprezzato dalle donne e da tutte le Jennifer, che okay, Jennifer Lopez e poi Jennifer, oddio come si chiama l'altra, vabbè, Garner, Garner, ecco. Ma anche da Kirsten Stewart, che ha detto che il prossimo regista vuole che sia lui. Sì, ma non se l'è puppata. Ma se lo pupperà, perché lei con i registi. Vabbè, sì, ma dovrebbe, non ha capito, deve farlo prima per ottenere la parte, ma... sì. allora, Ben Affleck, da questo attoraccio, cane, insomma, vi consiglio di vedere Gigli, dove dà il meglio di sé, è passato dall'altra parte della macchina da presa, e incredibilmente sembrava una mossa azzardata, anzi una mossa che avrebbe chiuso per sempre la sua carriera, invece... incredibilmente è stato il suo successo. Adesso la gente lo rispetta e la gente può dire in pubblico di stimarlo, di dire a me piace Ben Affleck senza assolutamente vergogna. Questo è incredibile. Terza regia di Ben Affleck, era partito col boom incredibile, un exploit assoluto, che era Gone Baby Gone, che devo ancora vederlo, quindi non dico nulla, però insomma ancora adesso viene considerato il suo più bello. Ha continuato poi con il thriller adrenalinico The Town, magari un filmetto minore ma comunque fatto in maniera egregia, e questo Argo era la prova del 9, insomma da qui si doveva testare veramente se era un bravissimo regista o se finora aveva avuto solo fortuna, e a mio modo di vedere ha passato in pieno la prova. Poi ne discutiamo insieme. Bighe, racconta Argo. Ventilazione. Sì, c'è la sciatalgia. Alla trachea, però. Argo racconta di una storia realmente accaduta, ma allo stesso tempo anche di un film che non è mai esistito, un film immaginario. Siamo nel 1979 in Iran, siamo all'apice della rivoluzione iraniana, appunto. Da pochi mesi, anzi, Ben Affleck fin dall'inizio ci fa vedere lo stile del film, cioè l'argomento lo sappiamo, però come lo tratterà? Cioè fa un riassunto degli ultimi 20 anni della storia dell'Iran tramite dei fumetti, cioè per dire subito non è che sarà un film pesante, lo voglio mettere giù molto easy, sui fumetti, insomma, se non li capite dai fumetti lasciate perdere, e appunto fa vedere questi ultimi 20 anni in cui è stato intorno al 1953 è stato messo su da un colpo di stato della CIA, dei servizi segreti britannici, è stato messo su questo Shah di nome Mohammad Reza Pahlavi, che per anni ha governato nell'odio generale, perché lui viveva da Dio, ci faceva arrivare i pasti da Parigi, la moglie faceva il bagno nel latte, e lui, a parte controllare il suo, cioè gestire il suo potere grazie alla polizia interna violentissima, voleva anche occidentalizzare addirittura la cultura iraniana, insomma un pazzo. Finalmente nel 79 viene buttato giù e al suo posto sale l'Ayatollah Khomeini, che tutti voi conoscete, insomma, se avete visto i Simpson lo conoscete benissimo. L'Ayatollah Khomeini? Sì, anche lui, anche lei, insomma. Insomma, di questo inizio, appunto a fumetti, essenzialmente non c'è granché che voi dobbiate... immagazzinare nella vostra memoria, insomma, non è importantissimo, basta che capiate che l'Iran ha cambiato proprietà, non so, insomma, ha cambiato leader, questa volta è uno cattivone che odia gli Stati Uniti, e poi si scopre che appunto durante un'invasione dei ribelli in ufficio governativo 6 americani riescono a scappare nell'ambasciata americana e devono uscire dal paese, quindi questo cattivone odia gli americani e gli americani devono farli uscire dal paese. Tutto qui. Dimenticatevi tutto il resto, non ha importanza. È bello che la componente dell'entertainment batte quella dell'information, questo infotainment. Siete ancora svegli, sì? Ah. Sì, però sei cattivo. No, però nel senso... non è siriana, come è stato detto da qualcuno. Non è siriana, nel senso che è pesante... Per esempio, se io ti incomincio a parlare di Medio Oriente, te incominci già a vagare con la testa, perché è una cosa pesante. Invece, qua riesci a mettertela giù in una storia abbastanza interessante e affascinante, anche perché è una storia cinematografica, basta raccontarla ed è favolosa, è una storia bellissima. Sì. E... No, intendevo dire che sei cattivo quando dici che sì, ok, lei è come Ini e viene dipinto come il cattivo, però fondamentalmente più e più volte nel film viene detto che lo Shah è stato messo al potere dagli Stati Uniti, che adesso stanno pagando un gesto che tutto sommato non piaceva al popolo iraniano, proprio perché mentre loro morivano di fame lui... Sì, ma non volevo dare, volevo dare un giudizio, volevo solo dire che uno era l'amico della CIA, non c'è più, e adesso c'è uno cattivo che è il nemico dei nostri protagonisti, solo per quello. Poi, sì, ovvio, non voglio fare una questione politica. No, perché sennò rischiamo l'incidente diplomatico. Sì. L'Iran già ci ha mandato diversi attentati... Novara è nel mirino dell'Iran. Sì. Ma che Novara? Novara di Sicilia, sì, bravo. E vabbè, allora, protagonista, cioè Ben Affleck interpreta questo Tony Mendez, che è un esperto, io ho messo infiltratore, ma com'è che l'avevano definito nel film? Esfiltratore. Esfiltratore, infatti. E no, li va a mettere nei paesi. che simpatico. Non vogliamo. No, ci penso io. Vabbè, mentre la CIA, che ci mette 2 mesi a capire che questi 6 americani sono nell'ambasciata americana, non so, forse prima non era trafelata questa notizia, però ben 2 mesi, e se ne escono con varie idee, o gli portano delle biciclette e il Gatorade per farli arrivare al confine con l'Iraq, oppure li fanno passare per insegnanti, oppure per esperti di agricoltura, insomma, sono tutte idee che vengono bocciate per vari motivi. Tony Mendez se ne esce con una bizzarrissima mentre guarda un film di fantascienza in televisione, e siccome un suo amico è un esperto truccatore vincitore dell'Oscar, dice: ma perché non facciamo finta che questi 6 sono parte di una troupe cinematografica canadese, che sono andati giù in Iran per scovare delle location per un film di fantascienza, e io vado giù e li porto fuori, così, molto semplicemente. Sembra un'idea folle, ma funzionerà? Non lo so, è una storia vera. Magari molti lo sanno come finisce, magari molti no, quindi non dico niente. Allora, mentre pensavo un aggettivo da dare a Argo, mi veniva in mente solo solido. Un ottimo film solido, classico, made in USA. C'è dietro tanti soldi, c'è dietro un ottimo cast, c'è dietro comunque un buon regista, adesso si può anche dirlo tranquillamente. C'è dietro un'ottima sceneggiatura e c'è dietro una storia americanissima. Loro, una storia loro che gronda stelle e strisce e patriottismo, sì, insomma. E che cosa volevo dire? Insomma, è solido. Sì, è come un tavolo. No, volevo fare questa metafora, ma non la uso. È difficile trovare una pecca in questo film, o insomma, trovare qualcosa che davvero non vada, perché sceneggiatura buonissima, ritmo ottimo, la regia di cui parlo poi, favolosa, cioè comunque ottima, fa un bel lavoro. Il cast è stato scelto benissimo, la ricostruzione dei vari, le location e il trucco degli attori, hanno fatto un lavoro meraviglioso. Non mi viene aggettivi più sensazionali, tipo un capolavoro, uno dei migliori film dell'ultimo periodo, perché sembra che gli manchi, non so, quella scintilla. Il guizzo, esatto, quel tocco artistico, quel cosa in più che lo spinge ad essere qualcosa di molto migliore di un film solido e ottimo e inattaccabile. Vado veloce, che dovevamo tagliare veloce. No, vai. Vabbè, mi è piaciuta tantissimo la costruzione, la sceneggiatura, dei 3 atti canonici, questo inizio di cui ho già parlato, cui viene introdotta la storia, che potevano farla appunto molto, in maniera molto pesante, invece se la cava velocissimo, te la racconta, non pecca di nessuna superficialità, sai tutto quello di cui hai bisogno. Nella parte centrale c'è molto spazio a anche divertimento, perché la coppia Goodman-Arkin è fantastica, molti hanno riso di gusto quando Arkin tirava fuori le peggio imprecazioni. E poi questa fase finale, carichissima di tensione, di suspense, non sai se ce la faranno, e persino io, che comunque sapevo come andava a finire, stavo lì col cuore in gola, mi ha preso, quindi anche se usa i soliti stratagemmi, i soliti trucchi triti e ritriti per tirarla per le lunghe, funziona, e quindi bravissimo Ben Affleck, bravissimi tutti, perché è un lavoro corale è fantastico. Tra l'altro è il primo film che lui dirige senza averlo scritto. Invece, sappiamo tutti quanto è bravo a scrivere. In effetti sì. E vabbè, due cose sulla regia, come ho già scritto. Ottimo lavoro, anche perché ha fatto dei lavori che si notano durante la scena, durante la visione. È riuscito a fare un film a metà degli anni 70 e un film degli anni 70 nel 2012. I movimenti di macchina, la costruzione della scena, sembra un film proprio che ha quasi 40, che no, anzi più di 40 anni. Quindi bravissimo, anche ha fatto anche un lavoro sulla pellicola, anzi ha usato davvero la vera pellicola, visto che adesso tutti usano il digitale. E insomma, oh, Ben Affleck ha fatto i compiti a casa, ormai non lo freghi più. Poi vabbè, adesso ne parliamo insieme. Concludo dicendo, ottimo film, purtroppo gli manca quel cento, quel non so neanche come dire, non so neanche cosa gli manchi, però gli manca, sì, è il guizzo. Forse avrebbe potuto usare di più sulla componente politica, forse. Ma forse non gli interessava, lui voleva raccontare. Sì, appunto, si focalizza più sulla storia, sull'eccezionalità, magari, di questa esfiltrazione che effettivamente riesce a riempire il film da sola, perché comunque è un'idea veramente suggestiva quella di far passare i diplomatici per una troupe che sta cercando le location di un film di fantascienza. Esatto, forse altri avrebbero usato appunto molto più politica, avrebbero messo molta di più e forse l'avrebbero appesantito. Invece lui fa un film snello. Sì, un film d'avventura quasi. Magari esagerato, rimane intrattenimento sempre. Non... Infatti, però qualcosa ti lascia, per osmosi qualcosa impari dell'Iran, della situazione di quell'epoca, però non te lo fa pesare. Io ti racconto questa storia, è ambientata in ha un background che te lo dico, poi vedi te, se ti interessa va bene, a me interessa che ti fai coinvolgere dalla storia, e per questo ci riesce alla grande, a voi. Vai tu o vado io? Come te pare. Vabbè, allora vado io. E vai. Mi sento molto Ayatollah Khomeini. Allora. Niente, alla fine concordo più o meno con tutto quello che ha già detto il Monco, sul fatto anche che manchi un guizzo, e sul fatto che forse se ne è anche parlato con toni troppo entusiasti su riviste, su siti, insomma si è visto gente inneggiare al miglior film della... aspettate un attimo che c'è la mia ex che è entrata su Skype, voglio un attimo bloccarla perché sennò fa l'intrusione. Questa lasciala. Sì, sicuro. Allora, che faccio? L'ha già lasciata, è una ex. La blocco. No, e lei lo scopre così. E come si fa? Devo fare occupato, mi metto in occupato. Sì, comunque se la blocchi le lo vede, mi hanno detto. No, vabbè, però se vado su un occupato mi hanno detto che, cioè, sta scritto che non dovrei ricevere le chiamate in arrivo. No, infatti. Grande! Grazie Skype. Allora, dopo la piccola parentesi sulla mia vita privata, torniamo ad Argo. Stavo dicendo che effettivamente i toni su riviste, comunque su siti di settore, forse erano un po' troppo entusiastici, nel senso che ho sentito anche parlare di miglior film del 2012, però come dice il Monco, alla fine manca questo guizzo, ma al contempo effettivamente è un film molto valido. Che altro aggiungere? Innanzitutto un po' vorrei focalizzarmi sul fatto che Ben Affleck, sebbene sia diventato un gran bel regista, soprattutto di buonissime prospettive, rimane un attore cane, e anche qui fa un gran bel cane, nel senso che comunque ha capito che non è molto espressivo e allora proprio si limita a non fare espressioni facciali. Quindi, ma ha la barba in questo, dai. Chi ha la barba e il frangettone. Sì, che si è coperto il più possibile, esatto. Non far vedere. Nemmeno aggrotta la fronte proprio. Molti hanno parlato di... i soliti ben pensanti hanno parlato di performance minimalista. No, minimalista è un'altra cosa, questa è proprio una non performance, però insomma è un dettaglio abbastanza marginale nell'economia generale del film, che intrattiene in maniera molto piacevole. E, se non altro, diciamo che Affleck è stato sia coraggioso che furbo, perché se avesse girato l'ennesimo film sulla realtà di Boston, magari qualcuno avrebbe già potuto tacciare di autoreferenzialismo, insomma, sarebbe stato il terzo film sullo stesso argomento. Abbiamo visto che fine ha fatto Inarritu, che con Beautiful è arrivato un po' fuori tempo massimo e tutti se lo sono dimenticato, e quindi insomma è stato saggio a scegliere questa nuova via, però come dice detto, chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Il momento da bar di Filmbusters. E, ma che conosci Lello? Lello, quello cecato. Sì, insomma, era comunque un terreno abbastanza impervio per un regista alle prime armi, anche perché, alle prime armi, comunque conosce il sistema, è un bravo scrittore, ricordiamoci che ha esordito con quel premio Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting, però insomma è comunque un regista che si approcciava per la prima volta a questo tipo di cinema. Dalla sua aveva anche comunque due autori che in un certo senso hanno subito un processo molto simile al suo, cioè, mi riferisco a Grant Henslow e George Clooney, che producono la pellicola, quindi magari hanno saputo guidarlo anche in tal senso. Niente, a me è piaciuto molto, non lo ritengo il migliore del 2012, perché torniamo al discorso del guizzo, però mi ha divertito e... volevo dire che la rivoluzione di cui si parla nel film è la stessa di Persepolis, quindi se avete visto Persepolis sapete benissimo di che si parla, e anche i risvolti successivi al rovesciamento dello Shah. Lo Shah di Persia, che bel nome. E niente, mi è piaciuto moltissimo, grande cast, ha fatto bene a circondarsi comunque di attori che magari non hanno grandi nomi al di là di Arkin e Goodman, ma che hanno garantito una bella prova, grandi caratteristiche. C'è l'ormai onnipresente Bryan Cranston, che è più o meno in tutte le produzioni americane da qui al 2016. 10 minuti di media, però. Sì, sì, sì, 10 minuti di media, però. Ma come fa? In tutti i film deve correre da un set all'altro, quindi fa scene brevi. Sì. Ma tra l'altro, il film che si vede stanno girando durante Argo, no? Quando Alan Arkin e Goodman si trovano bloccati e non possono raggiungere l'ufficio, sì. Immagino che quello sia un film con Bryan Cranston protagonista. Sì, sì. Però non lo vedremo mai, perché purtroppo quel giorno si girava una scena cruciale e i due molesti l'hanno interrotta. E niente, vincerà sicuramente un fottio di Oscar, dico io. La butto lì, secondo me sarà uno dei mattatori alla cerimonia di febbraio. E niente, per me può andare intrinseco a gettare fango su questa pellicola meritevole. Vai. Iran. Sì, io ce l'ho con l'Iran, è risaputo. Intanto devo dire una cosa, ma come fa uno ad avere un'idea così geniale guardando Battaglia per il pianeta delle scimmie? Questo è fantascienza, quindi è già qui ho storto il naso, no? A me è piaciuto, ecco, come dicevo al Monco in privato, non mi ha fatto impazzire, poi voi avete detto non manca il guizzo, io l'ho sentito un po' di più, ecco, ho provato anche a capire qual è il problema, e quindi parto dall'inizio. Io ero molto interessato a questo film, lo seguivo da un po', mi intrigava parecchio, la storia soprattutto, era perfetta, ho detto, ok, Ben Affleck sembra già che ci sappia fare, ma qui c'è poco da fare, insomma, deve metterla su schermo e già il metà del lavoro è fatto, perché era fantastica. Poi quello che ci ha messo lui è ottimo e su questo non discuto. Però si parlava prima anche lì di magia, qui di guizzo, io ho sentito, c'è passione in quello che fa, si vede, la cura più che passione, questo forse che mi lascia un po' interdetto. Comunque a me interessava l'aspetto cinematografico, soprattutto, cioè mi aspettavo fosse molto più presente, anche perché ho letto la storia vera, sembra che nella realtà hanno fatto proprio delle riprese, c'era una troupe più numerosa, io mi aspettavo qualcosa di più meta cinematografico, forse da questo dipende un po' della delusione, tra virgolette, oltre che dall'hype mi spiace usare questa parola e di solito evito, però effettivamente mi ero creato aspettative. E invece quella è la parte che mi è piaciuta meno, ed è anche infatti il motivo per cui nella parte centrale mi stavo un pochino appisolando, ecco, comunque ho perso un po' di vigore, perché non mi è piaciuto, ecco, questa cosa della Hollywood, io mi aspettavo fosse molto più pesante, più importante, invece non solo è ridotta un po' a barzelletta, perché come dicevate, ci sono questi due personaggi, Arkin e Goodman, tra l'altro com'è ingrassato, era dimagrito tantissimo per Red State, invece è tornato. Oddio, l'ho trovato meno obeso rispetto alla papessa. Sì, però se vedessi i film precedenti, Red State è l'unico che ho visto, però l'ho visto anche in TV, aveva perso un sacco di chili, poi l'ho rivisto qui ed è ritornato, sì, non è ai livelli record, ma ha ripreso, comunque insomma, l'importante è che sopravviva. E non mi è piaciuto, ecco, questo ridurre tutto un po' a... Sì, serve lo smorzamento del tono, la comicità a volte, però... Non so, a me ha dato fastidio che ogni volta che entravano in scena i personaggi di Hollywood fosse il momento della battutina. Cioè, è sempre, è categorico, è probabilmente il momento comico del film. E a parte che io non ho trovato così divertente i personaggi insieme, è proprio, mi ha dato fastidio questo, ecco, il non dare giusto spazio a quella parte della storia e ridurla un po' così, al momento, al diversivo comico, che poi diventa un po' pesante, ecco. Reiterato, sì, Arkin che fa le sue battutine, sempre le stesse, non so, a me ha colpito meno emotivamente. Mi sono ripreso nel finale perché effettivamente è un bel crescendo, senza dire nulla, però mi è piaciuto e mi ha toccato molto quando lì veramente vedi il ruolo del cinema, questo cinema che salva, che vuole salvare, forse lì ha un ruolo maggiore, ecco, fino a quel momento, cioè prima di quel momento non ci credeva nessuno in questa cosa, lì quando magari sei in difficoltà, ti appoggi a quello che serve, e questa scena in cui il cinema viene raccontato, voi capirete, chi non l'ha visto no, mi è piaciuta molto, ecco, quando davvero cominci a pensare che forse potrebbe salvarli davvero questa idea pazza, e il cinema diventa magia anche lì, ecco, però tutto quello che viene prima, messo da parte la questione tecnica, la scrittura, tutto a posto, però è appunto, mancava che mi colpisse al cuore, ecco, non ho sentito amore come avrei voluto sentire. Non metto in dubbio che sia cresciuto come regista, che stia crescendo, sicuramente è un passo in avanti rispetto a The Town, che comunque anche a livello di scrittura era scialbo alquanto, però ecco, vorrei vedere qualcos'altro, vederlo un po' più, non so, coinvolto emotivamente nel progetto. Poi magari lo è stato, io non l'ho sentito come, ecco, come speravo. Ok, tu sei il Moncorre contro Battere? No, anch'io mi aspettavo un po' più di meta cinematografica pizzapata, però alla fine mi è piaciuto lo stesso e quindi dico, ma sì dai, vai Ben, vai. Se ne fotte. Va bene, allora dai, passiamo all'ultimo film di oggi, in colpevole ritardo, uscito in Italia solo mercoledì scorso. Giovedì scorso, quando è uscito? Non lo so. Sì, anche quello l'8. Tanto in 9 sale, quindi non ve ne sarete resi conto. Oppure se avete visto il trailer, avete visto tutto il film, perché in 1 minuto e 59 racconta tutto. Ma non l'ho visto, meno male. Vabbè, tutto. Okay. Guarda, c'è anche la scena finale, per dire. Perfetto. Proprio tutto in ordine cronologico, rigorosamente, proprio... È una cosa dei trailer recenti, a parte che al cinema ci sono quelli da 2-3 minuti, è una cosa insopportabile. Ma guarda, questo è fatto veramente male anche rispetto agli altri. Comunque ci riferiamo alla ballata dell'odio e dell'amore, ovvero Ballata triste del trompeta di Alex de la Iglesia, altro regista spagnolo, e ce ne parla Intrinseco. Sì, un regista spagnolo talentuoso questa volta, no vabbè, comunque un po' più dentro i suoi film. Parliamo di Alex de la Iglesia, abbiamo già detto, è uno dei miei registi preferiti, è diventato col tempo... bellissimi, La Comunidad, ma anche il bistrattatissimo Oxford Murders, che a me è piaciuto, sarà un tradimento dal cinema indipendente, tra virgolette, però a me era piaciuto, niente di trascendentale, ma era, poi si vedeva il suo marchio, insomma. E, appunto, quello era il suo ultimo film, adesso dovremmo dire l'ultima fatica di Alex de la Iglesia, ma appunto questo film è del 2010, esce solo ora, intanto è uscito La Cispa della Vida, che è l'ultimo, davvero l'ultimo film di Alex de la Iglesia, ovviamente anche quello non lo vedremo mai, anzi ecco, tra 2 anni, se segue la tendenza di questo qui. prima, se siete disonesti come noi. Sì, sì, infatti l'ho visto poco dopo l'uscita, ne parlavano così bene, ho detto, ma che cacchio. Infatti non è neanche uscito in Blu-ray, io volevo comprarlo, non so cos'è successo, sono problemi di diritti, vabbè. Ma... comunque, la trama, brevissimamente, anche perché insomma, è una trama esile, c'è questo inizio, insomma, parliamo anche qui di guerre, di rivoluzioni. Il film è ambientato negli anni della dittatura franchista, inizia nel 1937 quando Franco sta ancora instaurando il potere, insomma il potere lo raggiungerà nel 1939, ma aveva già iniziato insomma, il suo percorso da dittatore, la guerra civile era in pieno sviluppo, insomma 1937, dei repubblicani, cioè quelli contro insomma, l'esercito di Franco, reclutano e invadono insomma un circo e reclutano forzatamente gli artisti, quindi anche il circo, anche la magia del circo non si salva da questa guerra terribile, e tra questi viene preso un pagliaccio che viene reclutato tra i repubblicani, combatte a colpi di macete i franchisti, ne ammazza un po' e poi viene arrestato e processato dalle truppe franchiste. Il figlio Javier cerca di salvarlo con un attentato bomba in una caverna, e solo che l'attentato va male e uccide tutti, compreso il padre. Javier si salva e da grande diventa un bel ometto cicciottello, tra l'altro è un volto simpaticissimo l'attore, oddio come si chiama, Carlos Areces, Flavio Tranquillo, sì forse somiglia, non ce l'ho presente. Bello paffuto, però è appunto questo passato terribile, è un uomo malinconico, triste, sensibile, e cosa può fare? Il pagliaccio triste, cioè quello che si vede spesso con la lacrima, il volto coperto di bianco e la lacrima nera. Quindi va in questo circo e si innamora perdutamente di Natalia, interpretata da Carolina Bang. Spettacolare. Sì, che è un'attrice molto femminile, molto procace, bellissima, è la tipica bellezza spagnola. È un equilibrista, solo che lei sta già con l'altro pagliaccio della compagnia, che è Sergio, interpretato da Antonio Della Torre, e che è il pagliaccio tonto, non so in italiano se l'hanno tradotto, comunque il pagliaccio comico, allegro, è la controparte del pagliaccio triste. E queste due persone sono gli opposti anche nella realtà. Il protagonista, Javier, è appunto, come ho detto, il lato triste della vita, insomma un uomo dal passato drammatico che da un lato trama vendetta, dall'altro cerca tranquillità. Invece Sergio è un violento, ama Natalia, la ama molto carnalmente, la picchia, insomma è una bestia, un uomo viscerale, rozzo, l'opposto, e quindi insomma si crea una lite tra i due, una rivalità per il cuore di Natalia, che alla fine però cede sempre alla violenza di Sergio. Finché un giorno Javier cerca di salvarla dalle violenze di Sergio e colpisce il pagliaccio tonto con questa tromba, chissà se è un nesso col titolo, che in realtà è legato alla canzone, però c'è un richiamo, lo colpisce con questa tromba, in faccia lo sfigura terribilmente, davvero delle cicatrici fantastiche, viene incolpato di questo, scappa e mi fermo qui. Comunque anche lui dovrà affrontare una trasformazione fisica abbastanza radicale. Quindi è un film su una rivalità, su una guerra, insomma, questa guerra che divide in due la Francia e divide anche questi uomini, li divide in tutti i sensi, anche psicologicamente e fisicamente, li devasta, li distrugge, li trasforma in dei mostri, e il film è un gran guignol, è una mostruosità, un aborto, è incomprensibile, è difficile anche spiegarlo, è un viaggio surreale nella violenza di questa Spagna che si personifica in queste figure, in queste maschere orribili, che si odiano a tal punto da distruggersi, forse rischiano anche di distruggere quello che amano, che è la patria nella metafora, ma è Natalia nel film, e tutto va a pezzi, insomma è un film terribilmente pessimista. Poi sentendo parlare della Iglesia invece vuole essere un esorcismo, insomma, un modo per abdicare dal passato. Insomma, la Francia ha vissuto 35 anni sotto Franco, negli anni 70. La Spagna, sì. Anche la Francia, sì. E, insomma, una dittatura piuttosto lunga. Noi abbiamo avuto il ventennio, non hanno avuto il trentacinquennio, anche di più. E mi ricordo, tra l'altro, credo fosse Carne tremula di Almodovar, che finiva proprio con la morte, iniziava proprio con la morte di Franco, e raccontava questa Spagna che cambia. E la Spagna è cambiata, ma è difficile dimenticare una cosa del genere, soprattutto perché comunque noi la conosciamo indirettamente, ma era uno stato di polizia, era una dittatura delle peggiori. E lui dice giustamente, come cancelli una cosa del genere? Cosa c'è di... in che modo puoi esorcizzare? E secondo me ci riesce in questo film pazzo, lo esaspera, racconta una storia esasperata attraverso personaggi esasperati, è tutto un circo, ecco, la realtà è un circo orribile, e forse l'unica cosa che rimane è ridere, anche di queste figure terribili, grottesche, tremende. Secondo me è un film molto potente a suo modo, bisogna accettare un po' di compromessi, perché ha una forma che, insomma, bisogna accettare, il comico sposato col tragico, con l'horror, con l'azione, un po' di erotico, cioè è un film profondamente spagnolo in questo, anche nella fotografia, nei colori. Mi viene in mente sempre la scena in cui si vede dove lavora Natalia dopo la separazione dal circo, questo club che si chiama Kojak, che è stranissimo, campeggia questo volto di Kojak sullo sfondo, le ballerine discinte e il capoccione di Telly Savalas, sia fuori che dentro il locale, insomma è tutto un sogno, è tutto felice, no? Questa Spagna felice, ma in realtà non c'è nulla di felice, c'è solo orrore, distruzione, è davvero, non so, mi ha stregato, poi è un finale potentissimo, e non parlo della conclusione, dell'ultimissima scena, che dopo quello che hai visto, così pazzo, così... assurdo, smuove emotivamente, è proprio un film che è un pianto disperato e vuole anche far ridere, questo è il paradosso, l'intenzione è comica, però a me ha davvero turbato, vedo horror, vedo spazzatura, vedo cose terribili, ma questo mi ha colpito davvero, è faticoso perché è lungo, sono un paio d'ore e non è scritto benissimo, tant'è che non mi spiego il premio per la miglior sceneggiatura, però era piaciuto un sacco a Tarantino, voleva dargli anche il Leone d'Oro. Poi lo dette a Samuel, ci fu la polemica, pensa se l'avesse dato a questo. Però posso capire perché l'ho amato e lo amo anch'io. È difficile, è indigesto, però quanto è bello, la bruttezza che diventa bellezza, la Spagna, proprio il cinema spagnolo al suo top. Io adoro questo regista e adoro questo film, l'ho rivisto, l'ho rivalutato un po' in positivo, è portentoso. Beh, questo è forse, abbiamo parlato spesso di questo gusto per il grottesco tipico dei registi spagnoli, forse Ballata triste di trompeta è proprio l'apoteosi, sì, di questo gusto qui. E niente, alla fine hai detto tutto tu, c'è una scena bellissima all'inizio in cui nello spazio di veramente di pochi minuti definisce tutti i personaggi, ovvero la scena del bar. Dove sì, sì, sono tutti insieme, tutta la combriccola di circensi che ordinano quello che desiderano, insomma, già lì vengono definiti i caratteri in maniera impeccabile, e poi insomma il film prende la sua strada. Molto bella anche la scena dell'epifania del personaggio, che è un grandissimo Flavio Tranquillo, cioè no, scusa, il pene in muscolo, esatto. la scena dove vabbè, la diciamo? Non la diciamo? No, tanto, sì, tanto c'è anche nel trailer. Beh. Vabbè, la scena del cinema dove vede Rafael che canta, sì. Sì, sì, sì, sì, molto. Tra l'altro c'è anche l'aneddoto, Rafael non voleva fare il film, che l'ha visto e ha detto "Ma che è sta cosa?". E della Iglesia ha detto "Ma come? Ha fatto il film su di te praticamente, cioè è costruito intorno anche alla tua idea, mi è venuto in mente, ci devi essere", e va bene, lo faccio, ma mi doppio da solo, perché evidentemente non è doppiato. Tra l'altro la canzone, Ballata triste di trompeta, credo sia una canzone italiana, non ricordo l'artista, comunque poi bellissima lì quella situazione, sì, sì, però sì. la follia, no? Il cinema che anche parla. Quelle, anche anche la canzone è disturbante, sì, modo, sì, è malinconica, no? Ipnotica, sì. A me piace molto, è stupido, anche qui è didascalico, però mi piace quando sono in strada durante la famosa scena, insomma, terribile, e lui Javier si avvicina a questi terroristi dell'ETA e dice "Siete voi, con che circo siete?". Cioè, è stupido, è questo voler mettere tutti nel circo, però è bello, è la follia, sì. Lui individua subito quelli che sono come lui. Sì. Ma ecco, questa imperfezione della scrittura che a me è piaciuta molto, perché insomma è un po' un calderone in cui viene messo di tutto e di più, e alla fine ne esce qualcosa che ha una forma compiuta. Ecco, magari l'unica cosa che proprio non mi è esattamente piaciuta è un po' che il fatto che nel finale sfugge un po' la mano, magari anche c'è anche un'effettistica che non è esattamente riuscita, un abuso di computer grafico. Abuso, forse proprio il fatto che evidentemente non ci sono mezzi per fare film con effetti speciali in Europa. Fatto sta che sì, questa computer grafica alla fine è un po' posticcia, ecco, anche dal punto di vista fotografico. Un film che fino allora era è bellissimo dal punto di vista fotografico, lì scade un po'. Anche la scena, vabbè, non entriamo nel dettaglio, comunque c'è un frangente veramente disturbante in cui si intravede anche il generale Franco. Sì, sì, sì, che poi è molto diverso da come uno lo penserebbe. Sì, sì. Non è un mostro, è un vecchietto. Infatti è molto criticato in Spagna questa cosa. Come fai un film così e dici, metti Franco che è un... Dice, ma quello è il Franco pubblico, la gente lo vedeva così e quindi io ve lo faccio vedere così. Certo. E niente, è un film che ho visto a suo tempo in lingua originale, è un film che va visto in lingua originale perché lo spagnolo comunque... ecco, c'è anche questa armonia nei film spagnoli tra il gusto per il grottesco e una lingua che è effettivamente molto musicale, sì, si presta molto, ecco, anche perché io ho sempre sostenuto la teoria che non puoi fare un discorso serio in spagnolo, non verresti preso sul serio da nessuno. Però in questi film si sposa bene, cioè, anche ad esempio in Bad Time non riesco a immaginare come sia doppiato in italiano, ho visto in spagnolo, me lo sono gustato in spagnolo, c'è cioè Tosar squisitamente isterico, mi è piaciuto veramente tanto, come mi è piaciuto questo Ballad di Sede Trompeta, anche al netto di un finale non esattamente nelle mie corde, ecco. Ma anche la scena della moto. Sì. No, è poi... molto caricaturale. È bello che sopra c'è una cosa terribile, sotto fanno questa cosa idiota. Però, boh, non stona, è folle. Sì. Sto volando. E poi è una cosa che fondamentalmente se la facessero in un altro paese non riuscirebbe così bene. È proprio... è una cosa loro, parlavamo qualche tempo fa del fatto che in Italia non esistesse una scena, mentre invece casomai in Spagna sì, ecco, questo è forse uno di quegli elementi che caratterizza una scena, il fatto che sia terribilmente forse non è la parola giusta, però sia estremamente riconoscibile anche da queste piccole cose, sensazioni che casomai a caldo non riconosci, ma poi riflettendoci il film ne è pieno, insomma. In questo caso no, perché vabbè, è talmente esplicito il fatto che c'è il grottesco, è così dominante. Qualcuno l'ha definito bartoniano, ma oddio, a parte... Ma magari Barton facesse queste cose. No, infatti, Barton ormai si è allontanato, anche se con Frank Winnie dicono che si sia ripreso, insomma, vedremo a... quando uscirà in Italia, se è vero, fatto sta che è ben poco di bartoniano, è un grottesco diverso, ecco, molto diverso. Monco, dici qualcosa tu. È come non quotarvi, non facendolo. No, non lo so, deve piacere, questa roba deve piacere, il cinema spagnolo quando esagera in questo modo, o piace o non piace, insomma, non c'è una via di mezzo. E se con Rec 3 ero sulla soglia, proprio stavo quasi per non massacrarlo, questo non ce la faccio. No? È una tu hai usato la parola calderone, a me viene la parola cozzaglia di roba, è tutto un insieme di... Appunto, quando ho letto il premio Osè, la sceneggiatura, ma che hanno visto questi? Né? Non c'è una sceneggiatura, sono varie scenette, varie robe che aveva in mente il regista, le ha pioppate lì tutta una dietro l'altra. Parte in un modo che a me interessa molto, la visione grottesca della guerra e poi della post-guerra civile e del franchismo, ma lo so, non mi piace proprio la piega che prende, ci sono delle scene tipo quando vanno al parco la prima volta, pene piccolo e l'onomatopea vivente, la Bengli, e c'è il Sergio che prende a martellate il rivale, che lì dicevo, dai, adesso si sveglia, ed era un sogno. No, è tutto vero, non le reggo, mi dispiace. È un limite mio, lo so, non abbraccio l'assoluto, come diceva un mio datore di lavoro, però non ce la faccio, mi dispiace, scusatemi. Perché effettivamente se non ti è andata giù la prima parte, che forse è quella più, sì, comunque grottesca, ma più terra-terra, sì, poi la seconda che... Cioè, non mi è piaciuto quell'inizio, poi lui quando se ne va dal circo, la trama l'hai raccontata comunque fin lì, e c'è quella seconda parte in cui incontra... il suo passato e passa quel periodo nei boschi, e ho detto seriamente? No, non lo so, no. Ma no, perché? Non è seriamente, quello è il punto. No, lo so, seriamente nel senso, lo sta facendo davvero, sta andando da questa parte. Ma. E poi, vabbè, a parte il fatto che inizia nel 37, riprende nel 73, quindi quel ciccione lì avrebbe più di 40 anni, davvero. Anche questo, già da quello gli storcevo il naso, Se non accetto quella roba lì, figurati il resto. Guarda, vorrei controbattere, ma era andato ad aprire a mia madre. Eh? Vorrei controbattere, ma era andato ad aprire a mia madre, quindi... Ok. Se vuole farlo intrinseco, con una rissa da barra. Sono più che altro dal punto di vista. No, ma capisco il mio limite. Cioè, capisco che a voi sia piaciuto, e mi va bene, però io non riesco a farmelo piacere, questo... Vabbè, la prossima volta ti obblighiamo. Non deve essere una forzatura, no? È un dovere. Deve essere un piacere. Se non piace, bene. Non è... A me piace, preso atto di, cioè, accettato quel compromesso, comunque quella cosa, l'accetti o non l'accetti, e poi appunto sì. Se non c'è quel tipo di partecipazione, è chiaro che uno poi non può apprezzare lo spirito della cosa, certo. Non so come altro ribattere. E vuole, il film è così, nel senso non ha detto non va bene perché non va bene, no, ha detto io non capisco, anche è un film che parte con un'idea, vuole essere così, se non piace quell'approccio che vuoi fa? Ci si può fa poco, a parte obbligarti. Comunque a sua giustificazione non cambia la sostanza, il film era quello da subito. Questa cosa l'ha tirata avanti per 10 anni, perché l'ha scritta 9 o 10 anni prima di quando l'ha fatto uscire, lo ha girato con il cast che se ne andava, cioè i cameraman, i tecnici, non so se perché veniva meno il budget, oppure vedevano cosa stava facendo. Comunque nell'intervista racconta che doveva finire in fretta, che la gente diceva no, io non voglio più continuare, me ne vado. E secondo me si vede un po', è frammentario in certi aspetti, sembra quasi, sai, mancasse una scena che lui avrebbe voluto inserire, comunque... Ha risentito anche di questo, ecco. Però secondo me non è un problema, era solo per aggiungere un dettaglio. Un dettaglio. Come hai detto che si chiama il nuovo film? La cispa della vita, che però non ha nulla. Cioè... La cispa. sempre un ritorno al grottesco spagnolo, tipo La Comunidad, comunque la storia di un uomo che cade, adesso lo ricordo vagamente da vecchie letture, comunque un uomo che cade... In qualche modo si impala su qualcosa con la testa, un paletto, e dice, questa cispa della vita dovrebbe essere una sbarra di metallo. Comunque lui si colpisce alla nuca e rimane bloccato lì e diventa un fenomeno mediatico e cerca di trarne profitto per la famiglia, però viene fuori tutto lo squallore della sua vita. Ricorda un po' No Man's Land, però in chiave grottesca. Al solito. E vabbè, non so, vediamo un attimo cosa esce la prossima settimana, ovvero questa settimana. Nulla. No, esce 7 psicopatici di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken, Tom Waits. Come, Breaking Down parte seconda. Lo stavo per dire, domani esce Breaking Down parte seconda, io mi sento un sacco bagnata. Non lo so, io sto pensando di girare un film con Kristen Stewart, però sono il regista. Vabbè, prendimi come aiuto regista, che ti devo dire. Ma possiamo anche fare una regia a 3 a sto punto, Vabbè. No, grazie. Ah, te non piace Kristen Stewart? No, grazie. Vabbè, dai, non è male, è un po' lasciva, un po'... Vabbè, metteteci Kristen Stewart, metteteci Rachel McAdams e vengo anch'io, vabbè. Ma non credo che si faccia registi, dai. Sì, Messi, Messi. Vabbè, ok. E niente, escono un sacco di altri film che però non so se vedremo mai in una sala del mondo civilizzato, ovvero Acciaio di Stefano Mordini, Il sole dentro di Paolo Bianchini, Tutini, La sposa promessa di Rama Burstein, Ini, Quell'estate di Gwendalina Zampagnini, Vitriol di Francesco Afro De Falco Ini. Madonna, io Vitriol lo voglio vedere, lo dico già. Vitriol perché già sai che... No, perché la trama è interessante, è un trailer orribile, probabilmente sarà orribile, però parla della massoneria, dei Borboni, sembra una cosa storica, invece sarà una chiavica, però... Vabbè, già, lo vedremo, per cui... già mi hai tolto la voglia. E poi Alia agli occhi azzurri di Claudio Giovannesi. Ini. E poi ci sarà il vuoto per le prossime 8 settimane fino all'uscita di L'Hobbit. Insomma, ci vediamo tra 2 mesi. Ci vediamo nel 2013, aspetta, ragazzi. Il 22 esce Dracula 3D, ma scusa. No, no, su quello facciamo la puntata speciale, assolutamente. Certo, sì. Una puntata a Torino, quella, Sì, a Torino, vengo a farla a Torino, sì. Perché c'è il film del più grande artista torinese, Dario Argento, e il Torino Film Festival, quindi sarà un'occasione irripetibile. Io ricordo il mio amico sulla seggiola a fianco a me durante i trailer in testa a Skyfall, che mi guarda e fa: ma è un film di Maccio Capatonda? Sì. L'effetto è stato quello, sì, del trailer. Sì, quello è un porno. Esattamente. E niente, quindi ci risentiremo prossimamente, cioè questo Torino Film Festival, probabilmente saremo tutti e tre a Torino, un evento straordinario che probabilmente avrà luogo, quindi se volete venirci a trovare a Torino saremo lì con lo stand di Filmbusters, ovvero una bancarella fatta con Paint, come ha detto Harold T. Wilkins sul forum di Games Village. E 440, sì, 440, sì, esatto. Ma è bannato 440? Sì. Ah, segnaliamolo, scusa, stiamo aspettando, dai. Povero Harold. Ciao, no, ancora fatto. Io ancora non l'avevo segnalato. Anch'io, però. Sembra Gargaros lo segnalo ogni volta, perché nonostante ci fa una pubblicità utilissima su praticamente tutto l'internet, un po' provo sentimenti di affetto / odio che mi portano a segnalarlo ogni volta. Dicembre mi sembra però abbastanza pregno di uscite, tra Moonrise Kingdom, di cui abbiamo già scritto la recensione, andatela a vedere sul nostro blog, penso intrinseco, un ritardo, E poi esce una cosa che noi abbiamo recensito come dispersa, The Grey. Esatto, ottimo di Ray. Esce anche Gravity, nuovo film di Alfonso Cuarón. Ah, minchia. Potrebbe essere molto interessante. L'Hobbit, ovviamente, l'uscita principe del periodo natalizio. Vita di Pi. Ah. E Raff spacca tutto. Vabbè, esce anche The Angel's Share, l'ultimo di Ken Loach, che ho già visto e lo recensisco a breve, quello. Così ce lo togliamo già, perché che verrà, verrà tradotto come La parte degli angeli. Sì, sì, sì. Il 18, mi sembra, dicembre. No, il 13. Ah, vabbè. Vedi? Sarà pieno di roba in quel periodo, E poi basta, poi c'è gennaio, ma probabilmente non arriveremo mai a quella data lì. Sì. Non supereremo l'inverno. No, ma soprattutto quando ci incontreremo di persona, capiremo che ci odiamo e... Tu sei tutto. Intrinseco. No, probabilmente sarai... Io pensavo che eri quello nero. Io lo dirò, che lo vedo tutti i giorni. No, comunque è probabile, quando ci vedremo sarà la data... coinciderà con la data di Maya, insomma, quindi... Lo invitiamo Darkman, magari si fa rivedere. Anche perché questo caldo innaturale, secondo me, è segno che stiamo arrivando alla fine, ragazzi, siamo alla frutta. Allora, ciao. Allora, ciao a tutti. Ciao. Ricordatevi di Filmbusters alla fine della fiera. E... What? E... ciao a tutti belli e brutti, salutate anche voi di nuovo. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Ah, vi ammazzo tutti.